Potenza 7 febbraio, Casa delle Culture, transizione di fase, qui per ascoltare alcune voci interessanti. Parliamo cioè di collettivi universitari, cioè la P2, che salutiamo tanto, ma anche Rete Difesa del Territorio e Media Attivisti. Ascolteremo dunque queste voci che sono intervenute durante una manifestazione relativa allo sciopero della FIOM che si terrà fra 2 giorni e anche in relazione al manifesto, un giornale che si cerca di far vivere malgrado la forte crisi nella quale riversa. Ascoltate dunque Transizione di fase, ma soprattutto c'era anche un piccolo speciale di una voce che apparentemente sembra poco seria, ma in realtà ci sta dicendo cose molto significative, quindi continuate ad ascoltare Transizione di fase, continuate ad ascoltare questo speciale. Siamo qui per Transizione di fase, siamo nella Casa delle Culture che è allestita in maniera alquanto inquietante. Qui c'è qualche giovane del collettivo P2 che insomma vuole esprimere il suo parere circa questo allestimento. Allora, io devo essere sincero, a me personalmente ci tengo a precisare che questa è una cosa che, viste le conoscenze che si rifanno al mio curriculum scolastico, posso fare anche a livello personale, non ho bisogno affatto della base del collettivo. Comunque io vi voglio dire una cosa, io apprezzo tantissimo questa struttura, ma la cosa che insomma lascia alquanto a desiderare è la decadenza del bagno. Ecco, diciamo, il bagno in sé secondo me non è degno della Casa delle Culture, mi aspettavo qualcosa di molto più originale. Poi approfondiremo in seguito l'allestimento delle mura che hanno un qualcosa di molto particolare. Ma la P2 quale contributo può dare allo sviluppo anche urbano dell'urbanistica in relazione insomma al proprio background politico-culturale? Ecco, secondo me è una delle principali azioni che la P2 voleva fare, però purtroppo a causa delle toghe rosse non è riuscita in pieno a completare, era quella della costituzione del nuovo ordine, come sappiamo, il nuovo ordine. E noi riprendiamo questa filosofia e questa cosa, e riusciremo a segnare il punto che non sono riusciti a darci i nostri predecessori, gli altri piduisti. Gli altri piduisti, quindi insomma una svolta radicale dal collettivo P2. Ma invece in relazione alla foto che mi hai mostrato poc'anzi, prima andiamoci proprio di fronte perché è importante, adesso stiamo camminando e noi vogliamo informare tutta la popolazione cosentina che c'è un'errata corrige sostanzialmente, perché all'entrata dove c'è quell'arco insomma fatto in mattoni pieni che si vede benissimo da questa posizione, a destra, subito a destra c'è una foto in cui è la didascalia, a margine recita Pasquale Quintieri. Secondo me questo è un parente stretto di un nostro glorioso compagno anarchico, non voglio entrare nei particolari per non dare, voglio dire, adito. Quindi non facciamo nomi? Non facciamo nomi. La P2 è omertosa? Sono terribilmente omertosi, quelle della P2 è una loggia segreta massonica. Accidenti, quindi abbiamo una loggia massonica addirittura all'interno dell'università che non può pronunciare il nome dell'innominato, ma possiamo dare una descrizione, diciamo, iconografica di questa foto? Iconografica. Allora, la foto ha i suoi occhioni, che si vedono anche se la foto è color seppia, gli occhioni del nostro signor X sono riconoscibilissimi, il fulgido brillio che sprigiona questa foto rimane in tutta la sua realtà. E poi c'è il suo glorioso pizzetto, biancheggiante, lunghissimo, anch'esso fulgido. E il capello? E il capello che però in questa foto, diciamo, ha questa, come definiremmo in gergo tecnico, è pettinato magari, scrima iminsina, che da non confondere con la scrima incommienso, che è un'altra cosa. Sì. Ok, io direi che per ora può bastare, o ci sono altre cose da dire da parte della P2, di questo fantastico collettivo? No, io vorrei sinceramente ringraziare tutti i compagni di Transizione di fase che ci consentono ogni settimana di andare. Ma anche voi siete Transizione, non l'avete capito, però anche voi siete Transizione di fase. Sì, ma è sempre nella linea dell'omertà. Salutiamo tutti quanti gli ascoltatori, ciao ciao. Seguiteci martedì alle 20 su Transizione di fase, ciao. Ciao. Gli antibiotici sono come le grandi opere e le grandi incompiute. grandi aspettative di miglioramento, poi ti lasciano un voto dentro. E sono molto grato a Massimo, ai compagni e compagni della CGL che vogliamo. Massimo, prima due cose importantissime, sul intervento con lui in pieno, soprattutto con parlare delle multinazionali. Io vado nella zona di FIBA, una volta un amico che è impegnato nella distribuzione ha detto vieni, faccio vedere una cosa. Ti piacciono i giusti di frutta della Parmalat? Sì, come no, pensate che la Parmalat dopo la crisi non era produrre quei giusti di frutta. Dici, guarda lì, mi ha mostrato un contenitore di plastica con, chiedo scusa se ci sono signori, per bambini più piccoli che sono la parolaccia, con la merda della merda, cioè gli scarti delle arance, la muffa, le cose più inguardabili e immangiabili che ci siano. Dice, le multinazionali come la Parmalat vengono, io vendo quel tipo di arance alle multinazionali per produrre tutti i frutti. Quindi io sono d'accordo con Massimo, lanciamo una campagna, diamo tutti gli scarti delle produzioni calabresi alle multinazionali. Questo non ci interessa, non gli scarti del maiale, perché il maiale non si butta niente, quello ci buttano tutto noi per la cosa. Sono andato ai compagni e compagni, dicevo, perché guarda che in questa città senza una materia di faccia, loro e pochissimi altri svolgono una funzione importantissima. Io quando ero un incazzato dei centri sociali, avevo 17-18 anni, a proposito, dall'epoca mi ricordo che con i miei nostri compagni prendevo in affitto un magazzino a Torre Alta e la malavita ce lo incendiò. E fu una casualità, noi non morimmo bruciati per una questione di pochi minuti, saremmo morti carbonizzati in terra. Non c'era Eugenio Scalfari, non c'era Giorgio Bocca, non c'era nessuno dei mafiologi, gli antimafiologi illustri che girano oggi in Italia a scrivere quel gruppo di ragazzi che si trova la malavita, come non c'è da nessuna parte in Calabria. Magari ci sono proprio su questo passaggio. Vorrei dire che a 18 anni, quando noi dovevamo raccontare qualcosa, quando dovevamo avere una interlocuzione, per giusto che è trovato Massimo, ci rivolgevamo a Mario Brunetti, a Pepino Mazzotta, a Tommaso Sorrentino. Oggi, io stamattina mi sono svegliato e ho dato un'occhiata alle mail, alle nuove compagne delle associazioni. Le notizie sono carabinieri visto nell'area dei capannoni che fotografa l'area degli spazi autogestiti, probabile sgombero. Dopo 10 minuti, nota del sindaco, non costruiamo più il villaggio l'ecovillaggio perché è l'area R4, poi lì nel palazzinale hanno costruito un'altra città e nessuno ha detto niente, perché questi poi è arrivata presa diretta, però nessuno ha detto niente. Adesso l'ecovillaggio è l'unica cosa che non si può costruire, meno male, vuol dire che hanno la sensibilità almeno verso i Roma. E non so, quindi dopo 10 minuti mi chiamo un compagno e dice, guarda, io non mi vado a incatenare al cimitero, mi vado al cimitero perché è morta mia madre da un mese e non le vogliono dare un loculo, l'hanno messa in un magazzino insieme a tutti gli altri morti nell'ultimo mese e ci vogliono prendere 5.000 euro se vuoi tumulare un terrestito e devi dare direttamente alla chiesa perché la cura ci riesco vive proprio per dare dei loculi. Io racconto queste cose dopo un brano musicale, però questa è la nostra città e a chi se non a Massimo, a Tadeo, Albino, cioè io non trovo altre figure in questa città, a parte il pazzo scatenato di Ciccio Gaudio e qualche altro compagno della sinistra anticapitalista, insomma, questo ruolo di interlocuzione che negli anni 90 in questa città aveva una sinistra istituzionale illustre, colta, sensibile, capace di ascoltare i più giovani, non posso parlare di Giacomo Mancini, no? Cioè, abbiamo appena verificato Maddalena ieri, lo coinvolgiamo nella agiografia, no? Però insomma, ecco, adesso ce l'hanno loro e speriamo che loro abbiano vita più lunga dei nostri compagni più illustri, anche dal punto di vista della natura, no? E quindi il dibattito di questo si rispetta, sono importanti. Tra l'altro abbiamo anche l'onore e il piacere di conoscere Silvio Messinetti, che prima di me, molto meglio di me, insomma, ha raccontato la Calabria e lo ha fatto facendo i nomi e i cognomi di chi l'ha devasta questa terra. Perché è troppo facile parlare paramente contro la 'Ndrangheta, troppo facile sparare nel buio. C'è un editorialista in una TV locale che ogni giorno parla contro la politica, contro la mafia, proprio non fa mai un nome. Poi la parola della televisione è stata aperta da gente che è molto vicina a questi qua. Insomma, è troppo facile, no? E allora, voglio dire, chi è oggi a sinistra a Cosenza, che viene Lois, ma di cui siamo orgogliosi di averlo qui con noi stasera, chi è? Dice Lois, senti Lois, vuoi scrivere qualcosa per il manifesto? Ti raccontiamo la storia della città degli ultimi giorni, vieni, ti faccio vedere la città dei ragazzi. Così ti faccio parlare della volontà di questi ragazzi che raccontano da quanti mesi non percepiscono lo stipendio, le condizioni in cui sono costretti a lavorare, e il fatto che grazie alla giunta di centro-sinistra, non so fino a che punto chiamarla così, i Berlusconi, questi sono, lavorano là dentro e il lavoro non c'è. Per il processo di privatizzazione, innescati da Franco Santo, Franco Berlusconi e Franco Ambrogi. Stavo arrivando a tutti i servizi. E questa è una delle verità pesanti che ci ha lasciato quella giunta, contro la quale non si poteva parlare, né finalmente a nessuno. Qualsiasi cosa dicesse a sinistra facevano la finta di non sentirti. E a parte loro, a parte questa parte della CGL, chi è che racconta a Moritz della lettera di licenziamento appena arrivata ai compagni della tutti i servizi, che hanno avuto grande coraggio negli ultimi anni di portare faccia a faccia, di andare sotto il comune in continuazione, senza che nessuno li ascoltasse. Non sto facendo una campagna elettorale al massimo, a serio, sto semplicemente dicendo, cercando di allinearmi al contenuto della discussione di catena, la fiorma, il manifesto. Loro ancora una base ce l'hanno, loro i compagni della CGL. Io penso che nel Novecento ci siano pochi pezzi della sinistra italiana che meritino di transitare nel nuovo millennio. Ma non sono io che lo dico, sono i fatti. Per esempio la fiorma, per esempio il manifesto. Non è casuale che questo pezzo importante del sindacato italiano è che questo giornale abbia ancora una base notevole, numerosissima, che ha espresso nel caso della fiorma una potenza incredibile, nel caso delle manifestazioni nazionali, dove ho partecipato l'anno scorso alla manifestazione, ma chi è che riesce a mettere in campo tutta quella gente? Attenzione, senza intrufarla. Cioè, quelli che hanno inviato erano spessore di compagni che fanno le lotte, che sono in fabbrica, che sbattono le corna ogni giorno contro la novella padronale. Chi è che riesce con il manifesto ad avere questo serbatoio incredibile di donazioni, di sostegno, di simpatia, di amore? Beh, sono tutti gli ultimi pezzi della sinistra, nessuno vuole, cioè noi vogliamo dire tutti con 900, però non ha senso chiudere con le poche cose buone che ci portiamo dietro, no? Queste sono quelle poche cose buone che veramente meritano di stare ancora in mezzo a noi, non tanto perché ci piace essere nostalgici, ma perché quando si parla di diritti, di lavoro, di democrazia, di interlocuzione, io penso che ci sia una sinistra che meriti ancora di vivere, di sopravvivere, di andare avanti. Ed è per questo che la manifestazione di dopodomani riveste un carattere particolare come quelle che verranno nei giorni successivi. Guardate, qua dobbiamo decidere una volta per tutte qui tutto da che parte stare. Non ci sono alternative. Si parlava del manifesto dell'importanza di un'informazione critica e libera. Guardiamo il contrario, il rovescio della medaglia. Massimo, io prima ho sottolineato l'incidente accaduto ai compagni della FIP CGL Calabrese. Un documento in cui si dice una cosa semplicissima sulla quale non bisogna essere di sinistra, cioè qualsiasi persona dotata di buon senso sarà d'accordo. Invece di spendere idee, degli anni, di darle agli amici e agli amici in valsusa, dateci la possibilità non di rendere veloce la nostra linea ferroviaria, non di farla esistere, perché noi non abbiamo più una linea ferroviaria. Cioè il concetto è elementare. Il direttore di un giornale, qualcuno l'ha definito il più berlusconiano degli amici berlusconiani, mi pare, subito esce il conflitto, la CGL, noi siamo a favore della TAR. Beh, questo è forzare la notizia, insomma, no? Anche quelli più maliziosi, quelli più cazziosi si renderanno conto che c'è una capacità di stravolgere i contenuti che è incredibile. Io qualche anno fa ho preso disgraziatamente uno di questi treni veloci che viaggiavano da Roma a Paola. Guardate, a Paola è arrivata l'ambulanza, ho dovuto portare via due persone, e fra quelli che vomitavano, fra quelli che erano colti da valore, sembrava un'infermeria, perché guardate, su questo si devono arrendere, la nostra non è una resistenza antropologica, noi non siamo fatti per la velocità di calabresi. Se tu metti un treno che corre su quella velocità ti sente male, ti viene da rimettere, possono o costruiscono una strada che vola sulle montagne, che sta sospesa in aria, ma devono farla veramente, perché se la fanno con le curve, da noi stiamo male, non la vogliamo la velocità, noi vogliamo essere collegati col mondo, così non riusciamo più ad andarci a Roma, non che ci piace, però ci dobbiamo guardare ogni tanto, e come facciamo? Quindi il documento esprimeva questo, e subito si stava male, scriviamo la notizia, come l'ha fatta, deve mettere un minuto in più, come l'ha creata, ha fatto un'operazione di captazione delle notizie, questo signore Eugenio Scalfari, c'è la moda degli ultimi giorni, giorni e scrivi anche tu una risposta del genere Scala. Sono arrivate tonnellate di repliche a questo signore qua. E infatti io come dicevo, devo portare le nazioni, le decisioni, devo portare data la valigia a loro per portare le repliche del genere Scala. A Delfi si andava per parlare con l'oracolo, da Scala entriamo per dargli le nostre risposte, insomma. Io ho letto un tanto che fosse calabrese, anche io come Giorgio Bocca è calabrese. Guardate, se ha fatto la pessima figura sul piano giornalistico, perché se fosse un giornalista dovrebbe sapere che nella zona di Lisbo, da cui lui proviene, c'è una delle tante inconchiuse di Calabria, anzi la presa l'hanno completata, è la via dell'Alaco, l'hanno completata e l'hanno completata talmente bene, ci sono 400.000 persone senza acqua all'intorno, perché hanno costruito un luogo, sono arrivato da punta a fare un luogo dove l'acqua è avvelenata. Allora se fosse un giorno, ma andate voi per dire a tutti che si allenano delle relazioni per anni, costringendoli a lavorare fino a 2 del mattino senza dare un centesimo, no? Io ho visto che ce l'hanno questi poveri schiavi, ho fatto anch'io lo schiavo, non voglio denigrare i compagni di amici che vanno con i giornali, sono stato anch'io lo schiavo in una relazione fino ad ora di notte per 700 euro al mese, no, 700 euro, scusate, per 350 euro al mese. No, prima di una volta che interviene, sì, lui invece così, lui fa la storia, è come i compagni della base, quelli che camminano in mezzo alla strada e fanno le cose. Allora, chiudo, questo Eugenio Scalfa meritava più che altro una seconda parolaccia, invece gli abbiamo dato troppa confidenza, soprattutto perché quando parliamo di Draghi, innanzitutto dovremmo avere un ragionamento un po' più etico su questa storia della Draghi. Non è una, non è più l'etnismo, però penso che veramente non ce la diciamo più tutta la verità sulla Draghi. Chiudo la parentesi di un documento un po' particolare, però io penso che la Draghi, su questo è d'accordo con me, la combattono quelli che vanno nei quartieri e danno ai ragazzi un modello alternativo alla cultura mafiosa, la combattono quelli come Pino che vanno nelle fabbriche e sfidano chi apre le fabbriche e apre con le condizioni che tutti conosciamo e poi si beccano le minacce, le aggressioni, quelle non finiscono sulla Repubblica. La combattono i giornalisti che scrivono sulla Draghi prima che ci arrivino i magistrati, se no siamo tutti bravi. Prendono il fascicolo del magistrato, e copio quattro cazzate e sono giornalista di mafia. E no, così siamo tutti bravi, quello mio. Vai a scrivere prima che ci arrivino i giudici, poi vediamo se c'è qualcosa che fosse sotto per poter resistere. E poi la combattono i compagni che lottano per i beni comuni, no? Qua c'è Flavio, c'è l'analistico, su questo da raccontare le televisioni, no? Quelli combattono la Draghi. Quindi la categoria degli studenti unica non esiste, cioè proprio è solo nella sua testa, di chi non conosce più la Calabria, di chi l'ha rinnegata, di guardare c'è un modo per essere calabresi come Silvio, cioè di scrivere nella Calabria, vivere altrove, ma di fatto vivere con cuore ancora in Calabria, cioè di non perdere il contatto con la propria terra. Quelli che se ne sono andati e hanno deciso di vivere altrove e di non tornarci più casomai a Natale, dovrebbero avere una buona mira di stare zitti, perché l'hanno rinnegata. Poi hanno sempre la capacità di dire no, io sono calabrese, conosco quei quattro selvaggi, adesso ve la racconto io, come ha fatto Giorgio Bocca, la Calabria, così siamo tutti bravi. Cioè, chiuso su, volevo sfogarmi e non me la faccio più lunga. E, niente, volevo solo dire, intanto sul Global Project l'articolo di Loris, e Loris ha detto una cosa molto saggia, la manifestazione di Dopodomani ha un valore che va al di là della categoria, della difesa degli operai, ha un valore di democrazia deliberativa sostanziale. Per tutto quello che rappresenta, per l'aggressione che stiamo subendo, perché riguarda la qualità dei rapporti della rappresentanza che stiamo costruendo in questo paese. In una battuta che mi viene in mente, dice un signore con bassa montagna che l'ha detto 3 mesi fa, cioè l'ultima lettera che ha scritto, è un luogo molto lontano da qui, che le puttane ci governino, ci giudichino e si occupino di noi, visto che loro si indicano. Una situazione rovesciata dove sempre la fabbrica resta il luogo di elaborazione, di costruzione di nuove culture e di svolte che poi si estendono alla società. Io credo che il rischio più grosso che noi corriamo in questo momento sia quello di smettere di scandalizzarci per quello che succede. Lo dico, potrei anche portare qualche esempio banale sulla storia delle vendite del manifesto. quando ci fu la prima guerra del Golfo, noi passammo da 30.000 a 90.000 coppie. Con la seconda guerra del Golfo siamo passati da 30 a 40.000 e poi via via ogni guerra, Kosovo e tutto quello che vogliono, l'Afghanistan, eccetera, non ha mosso le vendite del manifesto. Qui non sto parlando d'altri, sto parlando della sinistra, diciamo così. E cioè la guerra è entrata nella normalità delle cose, nel nostro pensare. Dico questo perché mi ha fatto molto riflettere la storia della Magneti Marelli, dove in qualche modo qualche giornale, pochissimi, hanno dato notizia, salvo fare in qualche modo un piccolo spettacolo, quando, così come Ammirazioni, la Fiom è stata costretta a prendere le sue bacheche e portarle fuori. Ma questo non ha scandalizzato praticamente nessuno. Nel momento in cui è stata cacciata dalla Magneti Marelli la bacchetta dell'Unità, improvvisamente l'Emilia Rossa si è accorta che stava succedendo qualcosa, e cioè che in qualche modo si stava, adesso non la voglio mettere giù troppo pesante, si stava costruendo un'egemonia rovesciata rispetto a quella a cui ci eravamo abituati e che pensavamo che potesse durare chissà per quanto tempo. Faccio questo esempio perché io credo che ci sia un legame strettissimo tra il rischio di congelamento, diciamo così, della democrazia nei luoghi di lavoro con il congelamento che c'è della democrazia nel sistema politico generale di questo paese, così come c'è nella rappresentazione, nel racconto di tutte le manifestazioni sociali e di tutte le forme di opposizione. In sostanza, che cos'è che unifica, come dire, la scuola e la riduzione a merce del sapere con la fabbrica, la riduzione a merce del lavoro umano che diventa una pura e semplice variabile dipendente del capitale e del profitto? O che cos'è che ha in comune la crisi che c'è nell'editoria e nell'informazione? Nell'informazione non c'è soltanto il problema che viene ripetuto fin esageratamente rispetto al peso che ha, e cioè di migliaia di posti di lavoro che, grazie al fatto che è stato deciso che qualsiasi forma di sostegno pubblico fa parte della partitocrazia, lo dico per semplificare, questa cosa sta facendo chiudere già alcune esperienze di testate libere, insomma qualche esempio ce l'abbiamo, cominciato Carta, ha seguitato Liberazione, e in mezzo ci sono tante piccole esperienze legate ai territori che sono spariti. Questa cosa qui fa saltare alcune migliaia di posti di lavoro tra i giornalisti e i poligrafici. Ma non è questa, secondo me, la cosa più grave. La cosa più grave è che viene tolta alla collettività intera la possibilità di scegliere in un'informazione plurale e libera, perché l'unica informazione che può sopravvivere è quella dei monopoli, quella che ha alle spalle i capitali, o anche, aggiungo io, che ha alle spalle i partiti, che ha dei padroni o dei padrini. Questo è il fatto più grave, ed è la stessa cosa che mi fa pensare quando vado a Pomigliano. Io sono stato 2 settimane fa a fare un reportage a Pomigliano e ho trovato una situazione incredibile. L'esempio che facevo dell'informazione la ritrovo nel fatto che la cosa più grave non è che la FIOM non ha agilità sindacale nelle fabbriche della Fiat per ora, perché la Fiat fa scuola, ma che i lavoratori non abbiano più il diritto di scegliere da chi farsi rappresentare. Questo è, così come nell'informazione, la cosa più grave è l'impossibilità per chi va in edicola di scegliere, perché si trova un unico pensiero, o pensiero unico che dir si voglia. La cosa che a me in particolare a Pomigliano ha colpito è che mi ha riportato agli studi che facevo da ragazzo, cioè ho fatto un tuffo negli anni 50 a parlare con lavoratori iscritti alla FIOM, gli ex delegati della FIOM, che ti raccontano come nell'arco di alcuni mesi, via via che la loro battaglia è stata oscurata, e per fortuna ci sono ancora alcune trasmissioni televisive che la raccontano, ma è scomparsa dai giornali, hanno difficoltà a parlare con i vicini di casa, hanno difficoltà a salutare e farsi salutare dai lavoratori della FIM o della WIM o di nessuno, sicuramente non della FIOM, che sono riusciti a rientrare in quella fabbrica che ha cambiato nome, e cioè insomma una sorta di filo spinato che si sta costruendo per isolare un'esperienza e una protesta. Questo appunto mi ha fatto pensare a quando leggevo i libri di Pugno e Garalini degli anni 50. Poi riflettendoci però mi veniva in mente che negli anni 50 la situazione era terribile, per alcuni aspetti forse peggiore di quella attuale rispetto alla possibilità di praticare una democrazia. E però c'era un punto di riferimento, una sponda politica molto forte. Appunto, i lavoratori della FIOM di Mirafiori c'avevano Pugni e Garalini, c'avevano il PC. Adesso, qual è la sponda politica? Poi potremmo fare lo stesso ragionamento per quanto riguarda gli altri movimenti. Qual è la sponda politica che hanno? Si potrebbe dire il PD. E allora mi viene subito in mente il fatto che a Torino, con la storia che ha a Torino, il PD abbia nominato come responsabile per il lavoro e per la Fiat l'ex segretario generale del SIDA. Il SIDA, qualcuno di voi se lo ricorderà, è il sindacato giallo inventato da Valletta per rompere l'unità sindacale, per avere, come dire, un terminale amico, sembra un paradosso, all'interno. Ecco, io non voglio spottere nessuno, voglio, cioè, davvero non dico questo per fare, per chiedermi, anche se me lo chiedo, che cosa è diventata quella che una volta era la sinistra politica in questo paese, ma in qualche modo mi interroga sulla possibilità di sbocco che ha una battaglia come quella che la FIOM sta conducendo dentro le fabbriche, così come mi interroga su quale può essere lo sbocco che ha la battaglia che fanno gli abitanti della Valciusa o quella che fanno i lavoratori e i lettori del manifesto, perché io credo che possiamo in questo caso parlare di un collettivo allargato, perché se per 41 anni siamo riusciti a vivere in modo paradossale, perché abbiamo sempre vissuto dentro il mercato, fuori dalle leggi di mercato, questo è stato reso possibile da un sistema democratico in qualche modo che garantiva una pluralità che oggi non c'è più. Ecco, io credo che da soli, ognuno di questi pezzi, o la battaglia degli studenti per la scuola pubblica e anche lì in difesa di alcuni diritti che stanno saltando per aria, o si riesce a riconnettere in qualche misura queste battaglie e dare loro una prospettiva. Allora, io non penso, adesso ci manca solo che che mi metto a pensare di costruire un partito, il problema è che casomai ce ne sono troppi forse di partiti, non che manchi quello giusto, ma una cosa che noi ci dicevamo tra di noi, che il manifesto dei momenti migliori e nella sua massima ambizione al massimo poteva costruire degli spartiti per tentare di far cantare in coro delle persone diverse tra di loro che però individuassero un percorso comune per il cambiamento. Ecco, questa è la ragione per cui io penso che la battaglia della Fiomme, la manifestazione di venerdì, sia una cosa che ci riguardi tutti quanti. E in una situazione come questa, dove forse io sbaglio, vorrei essere smentito, ma ci si batte in difesa di alcuni valori fondamentali e al tempo stesso per la costruzione di un diverso modello di, non solo di sviluppo, ma anche di relazioni tra le persone. Se questo piccolo mondo, che delle volte riesce anche ad avere dei risultati straordinari, pensate a un referendum come quello sull'acqua e sul nucleare che c'è stato soltanto poco tempo fa, non ha una sponda politica, non dico una rappresentanza politica che magari i movimenti neanche la cercano, ma una sponda politica. Se hanno difficoltà a trovare una rappresentanza sociale, l'unica ragione per cui un collettivo anche un po' provato come quello del manifesto può aver senso ancora, può aver senso ritrovarci un'altra volta, è quantomeno non negare a questi soggetti anche la rappresentazione, visto che la rappresentanza gli è negata. No, questo forse noi abbiamo fatto un sacco di errori, continuiamo a farne, ma una cosa l'abbiamo garantita in tutti questi anni, un racconto della società, delle sue contraddizioni, un sostegno a chi conduce battaglie come quelle di cui parlavo fino a poco tempo fa. Ecco, questo sarebbe un altro colpo alla democrazia. Anche questo caso fatto in nome della riduzione di tutto a merci, in questo caso l'informazione, e cioè i giornali e i mezzi di comunicazione in generale considerati come fabbriche di pesce sul gelato, per cui se tu riesci a guadagnare un euro con quello che porti in edicola hai diritto di vivere, altrimenti non ce l'hai. Dopodiché, che siano cambiate le condizioni e che questo mercato sia un mercato non libero ma truccato, e di questo non si parla. Che vuol dire mercato truccato? Poi la faccio finita. Vuol dire che siamo in una situazione di monopolio dell'informazione. Questo non credo che ve la devo spiegare. Il fatto che Berlusconi non sia più Presidente del Consiglio non muta assolutamente la composizione di classe, mi verrebbe da dire, il controllo economico e politico e culturale dell'informazione. Un mercato truccato perché gli stessi padroni della carta stampata come delle televisioni sono anche i padroni della pubblicità, che viene usata come un grimaldello per la costruzione, l'imposizione del consenso intorno al pensiero unico. Vuol dire anche che la riduzione a merce di alcuni servizi, penso per esempio a dei servizi comuni come le poste, fa sì che le poste sono diventate una cosa che in qualche modo assomigliano molto a una banca o a una finanziaria, che non distribuisce praticamente più la posta, compresi gli abbonamenti ai giornali, che hanno abolito i voli notturni, il 60% dei voli notturni, il che vuol dire che dei giornali come il Manifesto e come tanti altri, sempre meno perché via via ne muore uno dopo l'altro, non possono più arrivare in Sardegna, in Sicilia e nel sud della Calabria. Chi ci arriva? Ci arriva chi ha i soldi per stampare in queste regioni. Persino dentro le liberalizzazioni c'è una logica di sterilizzazione della democrazia. Voi pensate, estendere come dire, la libertà di vendere i quotidiani al doppio dei luoghi dove oggi vengono venduti, vuol dire che in Italia potremmo arrivare a 50-60 mila punti vendita. 50-60 mila punti vendita che sono più del doppio di quello che quotidianamente vende il Manifesto. Allora che cosa succederà? Che in ogni luogo arriveranno un paio di giornali più il giornale locale e distruggendo in qualche modo un rapporto che è un altro pezzo di democrazia del lettore con l'edicola, in qualche modo si compie l'operazione. Ecco, in questo senso dico che è un mercato truccato e che l'informazione non è una merce come un'altra. Potremmo fare l'esempio dei beni comuni, ma tutti questi esempi io li facevo soltanto per dire che non è ideologico pensare che tutto questo risponda a un unico progetto, che non è quello del grande vecchio, ma è quello del capitale in questa fase storicamente determinata, cioè una tendenza. Prima diceva nell'introduzione il compagno che mi ha preceduto che stamattina citavo l'incompatibilità della democrazia con questo capitalismo, e qualcuno mi diceva che sono sempre stati incompatibili, e io invece dico che non è vero, perché solo nel pensare l'esperienza del welfare, pensare ad alcune risposte, alcune sono state terribili in Europa, negli Stati Uniti diverse dopo la grande crisi, pensare alla risposta che c'è stata dopo la seconda guerra mondiale, in qualche modo la democrazia era una democrazia progressiva, si potrebbe dire, che teneva conto dei soggetti sociali in campo, che teneva conto dei più deboli. La Costituzione italiana e lo Statuto dei lavoratori non sono strumenti neutrali, ma partivano da un punto di vista, e cioè che ci sono dei soggetti più forti e dei soggetti più deboli, e che bisogna in qualche modo cercare di tutelare i soggetti più deboli. Questa è la filosofia non solo dello Statuto dei lavoratori, ma della Costituzione, e non è a caso è questo che si vuole far saltare. Ecco, allora io credo che dovremmo tornare a scandalizzarci, non per gridare o ululare alla luna, ma semplicemente per cercare di capire quali sono i processi in atto, non lasciare che ciascuno difenda il suo porchino arretrando piano piano fino in qualche modo alla sconfitta finale, ma cercare di guardare avanti e di non ripristinare uno status quo ante che non ha senso alcuno, ma cercare di pensare un altro modello di relazionarsi e di comunicare. Questo lo dico perché lo dico anche per il Manifesto, perché non penso che se siamo in una crisi che potrebbe essere quella finale del Manifesto, tutta la colpa sia dell'esterno, del destino 5 Baro, della caduta del muro di Berlino, del fatto che non c'è più una sinistra che non sia extraparlamentare. Evidentemente ci sono anche degli errori nostri, non siamo più capaci di raccontare come nei momenti migliori i processi di cambiamento, le contraddizioni, e di tentare di individuare non una risposta, perché non è questo, ma di aiutare a ricercare insieme questa risposta.